Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Overbooking qui sui 102.2 di Radio San Donà in compagnia di Alvise e questa sera con noi il nostro ospite e presentatore d'eccezione Ferdinando. Ciao ciao ciao, è sempre un piacerone essere qua. Adesso guarda, in diretta farò una cosa che non ho mai fatto e che non usa, mi mangio una caramella, guarda, senti un po'. Si è sentito? Sì, un pochino, è stato molto sensuale, soprattutto per me che ti ho visto. Allora, ringraziamo subitaneamente la redazione, a partire da quel polo di Matteo, Daniele in regia, Alice che quest'oggi è più silente di altre volte e Giulia che diciamo l'aspettiamo che come Godot, prima o poi tornerà. Benissimo. Bene, allora, questa puntata è una puntata tematica. Ultimamente sì, vi stiamo stupendo. A questo punto, la puntata di questa sera si occupa in particolare del materiale raccolto da Matteo e Ferdinando in quel del Festival Letterario di Mantova, che si è svolto tra l'8 e il 12 settembre di quest'anno. I nostri sono partiti con il loro pulmino, ci hanno dormito dentro, ci hanno pasteggiato, ma durante le ore in cui il sole era alto nel cielo hanno realizzato fior fior di interviste. Sì, tra un tortello mantovano e l'altro, e tra l'altro che consigliamo, non ce n'era bisogno, ma consigliamo perché solo di quelli abbiamo preso 3 kg. E tra l'uno e l'altro abbiamo realizzato alcune belle, speriamo, intervistine. Questa sera ne proponiamo alcune, perché questa sera parliamo di Fabio Geda e di Paolo Rumiz, due bei ragazzi, e come si direbbe, come dicono alcuni pezzi scelti della televisione. Assolutamente. E perché parliamo di queste due persone? Perché sono, oltre ad essere due ottimi scrittori, sono due scrittori che hanno compiuto un libro, stavo per dire compiuto un viaggio, ma in realtà hanno scritto un libro sul viaggio, viaggi un po' particolari. Fabio Geda, il viaggio di un ragazzo afghano che arriva praticamente con mezzi di fortuna in Italia, e poi ne sentiremo parlare diffusamente, quindi non vi anticipo nulla. Paolo Rumiz invece, allo stesso modo, una ballata, quindi non narrativa ma poesia, quindi una cosa un po' particolare per Feltrinelli, che di solito accoglie la narrativa in quella collana, un libro di viaggio nei Balcani, quindi un ponte fra l'Italia e i Balcani. Esattamente, Paolo Rumiz, autore di La cotogna di Istanbul, sì, ballata per tre uomini e una donna, e questo fa molto pensare, mentre Fabio Geda ha pubblicato recentemente Nel mare ci sono i coccodrilli, la storia vera di Enayatollah Akbari. Ho fatto un po' di training per imparare a dirlo bene. E appunto ve li presentiamo perché sono collegati da questo fil rouge che è il tema del viaggio. Allora, tema del viaggio, si diceva, sotto due diversi profili, e se posso dire, se posso permettermi... E secondo me ti puoi anche permettere. Grazie. Prego. Se posso permettermi, almeno nel caso del libro di Geda, viaggio un po', quantomeno un po' obbligato. Viaggio obbligato, bene, non l'ho capita ma rido lo stesso, ma va bene. Si parlava di un profugo afghano. Assolutamente sì, bravissimo. In quel caso a me non sembrava un viaggio di piacere. Ci sono arrivato adesso, vedi, basta darmi un po' di tempo e poi arrivo anch'io. Sì, la storia, quindi entriamo subito in argomento. La storia di Enayatollah Akbari, una storia vera, quindi non siamo nel campo della fiction. È un libro particolare anche perché raccoglie elementi leggermente romanzati all'interno di una storia vera, una storia che va a finire bene, ma con dei tratti assolutamente tragici, perché Enayatollah, per scappare dai talebani, praticamente va via, come dicevo prima, con mezzi di fortuna, quindi proprio a piedi, oppure nascondendosi in un doppio fondo in Turchia di un tir, accompagnato da personaggi abbastanza loschi, insomma, attraversa molti stati fino a giungere in Italia. E la storia quindi assolutamente strana di un personaggio che poi, visto anche dal vivo, insomma, lascia particolarmente... Sai cosa mi ha lasciato? Adesso usciamo dalla cosa un po' classica di presentare i libri. Sai quando ho visto questo ragazzo cosa mi ha lasciato un po' così perplesso? Il fatto che non si sappia, questo nel libro lo dice già da molto spesso, non si sa quanti anni ha. Cioè, non si sa, giustamente perché loro non hanno una anagrafe come la intendiamo noi, ma anche perché effettivamente questo viaggio, che è durato un sacco di tempo, lo ha veramente spersonalizzato a tal punto che lui non sa veramente neanche quanti anni ha, non sa che fine ha fatto sua madre, non sa veramente moltissime cose di se stesso. Questa cosa è veramente un po' paralizzante. Che è una cosa che ora... collegamento così a braccio, ma leggendo alcune cronache di Kapuscinski, che è un cronista di guerra di origine polacca, cronista che si è occupato in svariati libri editi da Feltrinelli per la maggior parte di guerre africane, e lì quello che colpisce del suo raccontare i soldati e i guerriglieri africani è il non saper da parte sua mai dire quanti anni hanno questi bambini. Bambini perché in maggior parte, sì, per la maggior parte sono bambini o adolescenti, ma le classiche persone dall'età indefinibile, perché la guerra magari li ha resi uomini, o certo, perché l'esperienza gli ha fatto perdere quel che di infanzia che ancora gli rimaneva, forse. Sì, allora io penso che, cosa dice Alvise? Possiamo andare a sentire cosa ci ha raccontato Fabio di questo suo incontro con Enayatollah e di come ha scritto e del perché poi anche ha scritto questo libro, Nel mare ci sono i coccodrilli, un libro che ha avuto anche un riscontro di pubblico, di mercato molto, molto forte, perché è rimasto primo in classifica per alcune settimane, poi comunque tra i primi 10 per sicuramente 2 o 3 mesi. Non è la sua prima prova letteraria, è il suo terzo libro, dove, dopo il bellissimo esordio che consigliamo per il resto del viaggio, Ho sparato agli indiani, pubblicato da, adesso da Feltrinelli. E vediamo cosa ci ha raccontato. Perfetto, perfetto. Ringraziando Nando per questa intrigante introduzione, andiamo sui 102.2 Overbooking RSD e questa è l'intervista realizzata appunto da Ferdinando e Matteo con Fabio Geda. La trasmissione speciale su Mantova Festival Letteratura. Siamo molto contenti di avere con noi adesso Fabio Geda. Ciao Fabio. Ciao. Fabio è qui per una serie di incontri, non solamente uno, ma quello su cui ci soffermeremo particolarmente è la presentazione del suo ultimo libro, Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Enayat Allah Akbari. Io mi sono preparato tantissimo sulla pronuncia che per spero dire il nome, certo. Per dire il nome, certo, e spero di averla vagamente azzeccata. Perfetto. Perfetto, un'ansia da prestazione notevole la mia. Allora, un libro veramente incredibile, lasciamelo dire, non è piaggeria, però tra l'altro ha avuto un riscontro di pubblico veramente estremamente intenso. E io so che tu lavori per professione, oltre che con la scrittura, anche con lavori per i ragazzi e con i ragazzi che hanno difficoltà di inserimento, ragazzi stranieri, quindi immagino che la storia di Enayat Allah tu l'abbia incontrata, oltre che la sua persona, per motivi professionali, diciamo, principalmente. Ci puoi raccontare questo certo. incontro? Guarda, ti stupirò dicendoti che invece no. Perfetto, ottimo. Perfetto, che invece no, nel senso che, ma come dire, questo rende l'incontro ancora più interessante, nel senso che Enayat Allah non l'ho incontrato per lavoro, ma l'ho incontrato perché era stato invitato ad una presentazione del mio primo romanzo. Ah, okay. Io in questo romanzo raccontavo la storia di Emil, che era un ragazzino romeno che faceva tutto un viaggio in Europa per cercare suo nonno, e visto che era, come si dice in gergo tecnico, un minore non accompagnato, il centro interculturale che mi aveva invitato in quell'occasione 4 anni fa ha avuto questa bella idea di affiancarmi un minore non accompagnato vero. Così c'ero io con la mia storia inventata, certo, anche se affondava le radici nel mio lavoro. E poi c'era lui con la sua storia vera. E lì ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, è nata l'idea di provare a trasportare su carta tutte quelle emozioni che lui riusciva a regalare al pubblico quando raccontava oralmente la sua storia. Ma questa cosa è successa 4 anni fa e io quindi in realtà mi sono, come dire, ho impiegato ben 3 anni prima di sentirmi pronto per riuscire a prendere in dono, no? Ad accettare il regalo che lui voleva farmi, cioè la sua memoria. Certo. Sì, infatti immagino che confrontarsi per un narratore, per uno scrittore, con una storia così grande, così anche difficile, ci voglia una soglia del pudore particolare, cioè ci voglia anche un rispetto veramente estremamente particolare per la storia che, come dicevi giustamente tu, ti viene affidata in dono. E giustamente tu, quasi rispondendo già a questa domanda, dicevi hai messo 3 anni per trovare forse anche la voce giusta con cui raccontare questa storia, che poi è la voce del tuo protagonista, però è contemporaneamente anche la tua. Ecco, qual è stato il rapporto con questa storia, insomma, dove hai trovato le motivazioni nel raccontarlo? Come hai fatto a trovare il tono per raccontare, il tono giusto per raccontare questa storia? Anzitutto credo di aver applicato una strategia che in tanti anni di lavoro educativo avevo affinato, che è la strategia dell'ascolto. Penso che noi molto spesso pensiamo di ascoltare ma non ascoltiamo. Invece, se lavori per tanti anni con gli adolescenti, una capacità profonda di ascolto, una capacità di ascolto che si affranchi dai pregiudizi che spesso abbiamo, dai preconcetti, e che quindi parta da un vuoto che fai dentro di te per riuscire poi a riempirti completamente della storia che ti viene raccontata, ecco, tutto questo è alla base di questo libro. Cioè io ho cercato di svuotarmi il più possibile, di sentire vibrare dentro di me tutte quelle storie che lui mi raccontava, tutte le sue parole, tutte le sue emozioni, e poi di riprodurle semplicemente come dire, lasciando che loro mi attraversassero, ok? Certo. E questo è, come dire, davvero una strategia tipica dell'educatore che ascolta il suo adolescente, tenta di capire qual è il suo passato, eccetera, eccetera. Io l'ho applicato in campo letterario con Enayatollah. E c'è stato anche un lavoro, come dire, oltre che di narrazione da parte sua, dei suoi ricordi, anche di, non dico di scrittura da parte sua, ma di confronto proprio sul testo da parte sua, di intervento sul testo? Direi quasi quotidianamente. Io scrivevo e lui rileggeva quello che io scrivevo e spesso interveniva dicendomi che magari quella cosa che avevo raccontato non era successa esattamente in quel modo. Interveniva dicendomi che quella drammatizzazione che io avevo inventato, quindi quello scambio di battute, magari era poco verosimile perché non avrebbero parlato in quel modo quelle persone, ok? Certo. Quindi lui interveniva costantemente nel dirmi se quello che stavo scrivendo, se la mia interpretazione, perché poi un po' di interpretazione c'è stata, ovviamente era corretta. All'inizio del libro c'è una bellissima cartina che rappresenta il viaggio che è stato fatto con tutte le città e gli stati che vengono attraversati dal tuo protagonista. E fa veramente impressione vedere quanta strada materialmente proprio fatto, perché un fatto è veramente raccontarlo e immaginarselo, poi vederla rappresentata in una cartina, in un grafico, è veramente spiazzante, effettivamente. Hai provato, dovendo dare la tua voce alla sua, a immaginare te stesso percorrere, fare un'esperienza simile, insomma, hai provato a calarti in lui, per quanto è impossibile, però sì. Sempre nel tentativo di dare la, di trovare la voce, insomma. Ma allora, cioè, partendo dal presupposto che se io avessi fatto quel viaggio sarei morto il secondo giorno, ok, questo voglio dire è chiarissimo, nel senso che io non sarei mai sopravvissuto a quel viaggio, per tutta una serie di motivi che partono ad esempio dalla mia claustrofobia, quindi okay. Figurati passare 2 giorni, certo. Ok, in giro per la Turchia in 50 centimetri, cioè sarei finito lì proprio. Ecco, partendo da questo presupposto, diciamo che non ho immaginato me, ho sempre immaginato lui, cioè nel mio immaginario era sempre lui a fare le cose, perché era lui che parlava in prima persona e perché io volevo esserci il meno possibile in questo libro, volevo davvero evitare di far sentire la mia presenza. Gli unici passaggi in cui si sente la mia presenza sono quei dialoghi che sono in corsivo nel libro, certo. In cui noi due dialoghiamo, certo. Appunto. Ma lì era una mia esigenza di svegliare il lettore, nel senso che avevo paura che il lettore si facesse prendere dalla storia e in qualche modo scordasse che non era fiction, ok? Per cui volevo ogni tanto prenderlo, proprio come dire, per la collottola, tirarlo fuori di lì, oh attenzione, guarda che c'è davanti a te la persona che ha vissuto tutto questo e te lo sta raccontando, certo. Ok? Bene, guarda, un'ultima cosa, tu sei anche un docente di scrittura creativa e una cosa che mi interessa particolarmente è chiederti questo. Tu leggi tantissime cose scritte da esordienti, da persone all'inizio, eccetera. Vedi qualcosa che si sta, come dire, muovendo? Mi spiego meglio. Noti una caratteristica comune nelle cose che leggi? Noti che questa generazione di nuovi narratori, anche se questa definizione è veramente orribile, abbia un tratto comune, oppure ci sia un'esplosione di punti di vista diversi, sguardi diversi, o vedi una caratterizzazione comune? Sì, ma guarda, allora, sono molto sincero, in realtà io alla fine poi 3 anni e mezzo che sono in questo roboante mondo della letteratura e dell'editoria, è un paio d'anni che mi capita di leggere delle cose di esordienti e dico sinceramente molto spesso rifiuto di leggerle. Mi è capitato di leggere alcuni racconti dei corsi che ho tenuto alla Holden, alcuni sinossi di romanzi, e in realtà solamente quest'anno, che per la prima volta insegnerò al master della Holden come assistente di Marcello Fois, mi troverò di fronte davvero alla necessità di leggere attentamente, molto probabilmente, molti, ok? Molti scritti di molti ragazzi giovani. quindi forse, come dire, mi sentirò più adatto a risponderti tra un po'. Perfetto. In questo momento non lo so. Ci rincontriamo tra un anno e ti farò la stessa domanda. Perfetto. Un'ultima curiosità, così chiudiamo con un tono di leggerezza. In tutte le biografie che ti accompagnano dappertutto, in tutti i comunicati stampa, c'è scritto che giochi nella nazionale di calcio, lo Osvaldo Soriano Football Club. La domanda è: che ruolo giochi? Quanto sei bravo? Basta questo. Allora, cioè, partendo dal presupposto che ci siamo imposti tutti noi della squadra di metterlo sempre, io sono l'unico idiota che lo fa, ok? Quindi, cioè, come dire, pubblicamente alla radio faccio appello ai miei compagni di squadra dello Osvaldo Soriano di mettere sempre che gioca nello Osvaldo Soriano. Ecco, detto questo, gioco terzino. Gioco terzino, e partendo dal presupposto che la mia capacità di palleggio e il mio fiato sono pari a zero, come dire, il trucco del mio essere in squadra è la concentrazione, cioè il giocare d'anticipo. Okay? Quindi io, il mio sforzo è sempre quello di immaginare dove finirà la palla, cioè praticamente mi invento le storie anche sul campo di calcio, cioè io sono lì. Perfetto, e mi invento come andrà avanti la partita. C'è un rapporto, quindi, assolutamente, è proprio, okay, come dire, un gioco da narratore il mio. Perfetto, va bene, allora grazie mille a Fabio Geda, è stato un piacere, buon Festival Letteratura di Mantova. E sui 102.2 di Radio Se Non Ha scopriamo che Fabio Geda gioca come terzino. Io sto piangendo perché anch'io ho sempre giocato come terzino dalla tenera età di 5 anni, ottenendo i più scarsi risultati mai visti sulla faccia della terra. A questo punto mi pare che il fatto che Fabio Geda giochi come terzino quantomeno ci obbliga a leggere un brano del suo libro. Adesso leggiamo un estratto dalla parte relativa al viaggio in Turchia, in cui Enayatollah attraversa la Turchia e, come dicevamo prima, su un camion, e vediamo che cosa gli capita e scopriamo la durezza di questo percorso. E allora, con il supporto di Alice, andiamo a sentire questo estratto dal libro di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Mi ha raccontato che il camioncino su cui viaggiava attraverso la Cappadocia aveva avuto un incidente. In una curva, lungo una strada sterrata di montagna, nella provincia di Aksaray, si era scontrato con un furgone carico di limoni. Lui era stato sbalzato fuori e aveva grattato con la faccia sulla terra. Poi i poliziotti turchi lo avevano preso e gli avevano dato un sacco di botte. E quando lo avevano consegnato agli iraniani, anche questi gli avevano dato un sacco di botte. Così il suo viaggio verso l'Europa, voleva andare in Svezia lui, si era trasformato in una poltiglia di carne e sangue, assieme ai suoi sogni. Mi diceva: «Io ti presterei dei soldi per partire, ma non te li presto, perché non voglio essere responsabile del tuo dolore». E anche altri dicevano come lui, ma non sono sicuro che fossero sinceri. Forse erano tirchi e basta. Eppure, a me bastava che arrivassero buone notizie, anche di uno solo. Mi bastava sentire: lui ce l'ha fatta, c'è riuscito, è arrivato in Turchia, in Grecia, a Londra, ed ecco che subito mi facevo prendere dal coraggio. Se ce l'ha fatta lui, posso farcela anch'io, pensavo. E questo è il primo e unico, molto probabilmente, estratto dal libro di Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Ora, io vi ricordo che per intervenire in trasmissione e dire a me quanto sono scarso e a Ferdinando qui accanto a me quanto è preparato, quante caramelle ha mangiato nel frattempo, potete semplicemente telefonare allo 0421 560993 o mandarci una mail a radio@radiosandona.it. Come sempre vi ricordo che questa puntata e tutte le nostre precedenti sono ascoltabili o scaricabili dal nostro blog, che è www.bloverbooking.wordpress.com. Lì troverete una serie di altri contenuti che esulano dalle puntate, dalle mere puntate, ma si rifanno a tutto quello che gravita intorno all'orbita overbooking. Quindi io ti assumerei per dire queste cose tutti i giorni a casa mia, veramente. È una... come fai a cavartela ogni volta? È splendido. Lo sai, ma io durante il giorno vendo pentole. A questo punto A cosa mi riferisco? Cosa troviamo nel blog? Allora, troviamo recensioni però che non passano per la radio, perché riceviamo una serie di libri di autori emergenti e già emersi. La maggior parte, tutti quelli che possiamo, cerchiamo di ospitarli in radio. Alcuni non ce la facciamo, recensiamo lo stesso il libro e ne diamo e diciamo cosa ne pensiamo noi nella nostra umiltà, e questo finisce sul blog. Poi abbiamo una serie di filmati realizzati da Matteo e Ferdinando presente nelle manifestazioni letterarie a cui ingiustamente ci invitano. Recentemente siamo stati a Mantova, siamo stati a Pordenone, siamo stati a Treviso, Comics. Quindi troverete sempre più nel blog video. E anche voi volete realizzare un video, volete fare una video recensione di un libro, mandatecela. Esatto. Io direi mandatecela. Sì, esatto. Se volete un consiglio, iniziate con un vostro primo piano, con in mano un giornale, ben visibile la data, e via, da lì è tutta salute. A questo punto direi che prima di andare a presentare il secondo ospite di questa sera, anche lui una conoscenza di Mantova, si tratta di Paolo Rumiz, come vi abbiamo già anticipato, andiamo a sentire un pezzo di Julie London, suggerita dal nostro esperto tecnico del suono, e quindi Daniele, fuoco alle polveri, Julie London su Overbooking 102.2 RSD. London su RSD 102.2 in questa serata in compagnia di Ferdinando Alvise con Overbooking. Allora, si diceva, Fabio Geda, conosciuto con Paolo Rumiz in quel del Festival della Letteratura di Mantova, dove avevamo come nostri inviati speciali Matteo e appunto Ferdinando. Piacere. Presente. È sempre un piacere esimio. Che cosa Cartoline da Mantova. Cartoline da Mantova, molto bello. Sai, si poteva fare una cosa come intervallo, quello che faceva la Rai tantissimi anni fa, Mantova, e poi delle... Esatto, delle con quella musichetta. Con quella musichetta, che sarebbe anche interessante da mettere adesso, ma vabbè, facciamo finta che fatela ci sia... Fatela con la bocca da esatto, casa. Esatto, voi da casa, esatto. Se avete un CD, mettetelo su. Adesso io attacco, vi sto dando adesso il tempo per organizzarvi. Ecco, l'avete fatto, perfetto, adesso posso parlare. Allora, Festival Letteratura di Mantova è sicuramente il festival più importante, più grosso del settore in Italia, un festival che cresce di anno in anno, un festival sicuramente dove vanno i nomi più importanti della letteratura italiana e straniera, riesce a raccogliere veramente il meglio della produzione nazionale e internazionale. Mi sembra un po' un discorso da Confindustria questo, adesso cerco di abbassare il tono. Sicuramente nelle aspirazioni di uno scrittore italiano c'è quello di andare a presentare il proprio libro a Festival Letteratura di Mantova, e già questa è una cosa che potrà confermare chiunque scriva in Italia, e già solamente questo dato ti può veramente far capire che è il... non te lo può far capire perché lo sai già, caro Alvise, però può far capire in genere che è veramente un punto di riferimento per chiunque voglia organizzare o organizzi un festival in Italia. L'edizione di quest'anno è stata contraddistinta da alcune vivaci polemiche, come quella che ha visto Caterina Sofici intervistare Nepal, ammesso che si pronunci così, e vederlo alzarsi e andare via, non molto in realtà alzarsi, perché non è c'è poco da alzare, diciamo. Esatto, ecco, immaginate che non abbia fatto questa gaffe. E perché per uno scontro in realtà politico sulle domande che gli venivano rivolte, quindi una discussione che poi ha trasceso sicuramente, e un'annata questa Mantova particolarmente ricca, dicevamo, i numeri del pubblico sono registrati intorno a, mi pare, 200.000 presenze. Questo mi fa fare due considerazioni: la prima, non so come facciano a registrare le presenze, sì, ci sono i biglietti staccati, però sono anche tanti eventi senza biglietto, ma noi accettiamo questo dato. La seconda cosa che ci viene in mente è erano invece 25 per la questura. Esatto, bravissimo, perfetto. Infatti ci sono questi due dati che vanno un po' pareggiati, bisogna fare la media. Tu da economista la sapresti anche fare, esatto. Io no. La seconda cosa che ci viene da dire è che un evento culturale che riesce a mobilitare così tante persone in Italia oggi è sicuramente un evento di cui non si può fare a meno di parlare, e noi ne stiamo parlando. Esattamente. No, i numeri confermano, diciamo, la lungimiranza anche di quanti organizzano il Festival della Letteratura di Mantova, che non è sicuramente alle prime anni, ma negli anni si riconferma come dicevi giustamente tu, uno dei più importanti appuntamenti in Italia per quanto riguarda la letteratura, non solo il romanzo e il racconto, ma anche il saggio. E certo, assolutamente. Ma noi questa sera rimaniamo sul romanzo e andiamo a presentare un altro nostro nuovo amico, che è Paolo Rumiz. Paolo Rumiz, come si diceva prima, fresco di stampa di La Cotogna di Istanbul, ballata per tre uomini e una donna. Sì. Ogni volta che lo pronuncio mi viene tre uomini e una gamba, e purtroppo prima o poi questa gaffa la farò. Ma probabilmente l'editor, non lo so, avrà pescato lì per il titolo. Sì, pubblicato da Feltrinelli, lo ricordiamo, molto bella la copertina, non c'entra forse molto, ma mi va di aggiungerlo perché veramente una scelta grafica interessante. Paolo Rumiz, dopo aver scritto, che conosciamo come giornalista, inviato di Repubblica e anche come saggista, e per esempio con libri sul Nord-Est e sui Balcani, anche soprattutto come narratore, ha una produzione molto intensa su quelli che sono libri di viaggio, con viaggi un po' alternativi. Per esempio ricordiamo Annibale, nel quale lui ha ripercorso proprio il viaggio di Annibale, Tre uomini in bicicletta, in cui ha attraversato i Balcani partendo da Trieste, mi pare comunque con altre due persone, compiendo questo lungo viaggio in bicicletta. E per il 150esimo anno che ricorre l'anno prossimo per le festività, come si può dire in questo caso? Il 150esimo anniversario? Anniversario, okay. Bravissimo, direi che ecco, questa era la parola giusta. Ha ripercorso l'Italia da nord a sud in un ipotetico viaggio che ricalca quello di Peppino Garibaldi. Ci propone una ballata, non quindi un testo narrativo, ma una forma un po' diversa, proprio quella classica della ballata, una storia d'amore. Una storia d'amore a metà sospesa fra Italia e Sarajevo. Benissimo, allora andiamo a sentire l'intervista ancora una volta realizzata dal nostro sempreverde Matteo in compagnia di Ferdinando a Paolo Rumiz in quel del Festival della Letteratura di Mantova. Overbooking, Radio Sandonà, siamo qui in questo speciale Mantova Festival Letteratura in compagnia di Paolo Rumiz, che ringraziamo per la sua presenza con noi oggi. Eccomi qua. E per una chiacchierata con lui, è venuto a presentare il suo nuovo libro, ma noi magari faremo una chiacchierata un po' meno legata al nuovo libro e un po' più legata alla sua vicenda professionale come reporter nei Balcani e come scrittore. Ci interessa particolarmente intanto il motivo per cui ha deciso di occuparsi di questa parte di mondo. Sicuramente c'è un dato biografico di vicinanza, insomma, immagino, ma come mai c'è questo nella sua vita? Come parte di mondo intendiamo il centro Europa, sì, i Balcani, sì. Eccetera. Beh, diciamo che Trieste è al confine, la mia città è al confine di tanti luoghi diversi tra loro. Una, appunto, sono la grande area danubiano-balcanica, l'altra è il centro Europa, con tutti i suoi mali di pancia, con tutte le sue trasformazioni, e poi c'è insomma l'Italia del Nord, che anche questa ha le sue paturnie che vanno seguite giorno per giorno, ecco. E naturalmente dei tre mondi quello che mi è rimasto più nell'anima è proprio l'area ex jugoslava, dove ho vissuto la parte più forte della mia maturità professionale, e nella quale ho conosciuto delle persone, ho avuto diciamo degli incontri così forti sul piano umano che alla fine mi sono deciso di scrivere un romanzo su questo tema, che è questo mio ultimo libro che si chiama La Cotogna di Istanbul, che ho raccontato a voce, una vicenda mia personale che ho raccontato talmente tante volte a voce e con tanta soddisfazione che non riuscivo a decidermi di metterla per iscritto, perché non riuscivo a trovare una forma che fosse all'altezza della meraviglia del racconto orale. E quindi è anche per questo, ecco, che ha deciso la forma della ballata, che è una forma un po' inconsueta. Esattamente, e finché non ho trovato questo ritmo, che è più o meno endecasillabico, ma che io chiamo più modestamente in corta riga, fino a quel momento non sono riuscito a metterla per iscritto. Invece poi ho trovato questa chiave che mi ha consentito di uscire dal personaggio principale e di trasformare, diciamo, il protagonista in qualcuno che non sono io, quindi raccontato in terza persona, al passato e in versi. Questi tre elementi mi hanno consentito di rileggere pezzi di me stesso, della mia vita, e mi hanno fatto entrare in una fase di creatività fantastica, perché scrivere in versi è una cosa a cui non avevo mai pensato prima di 2 o 3 anni fa, ma che ti obbliga a mettere ordine nella tua vita. Ho paura che suonasse. Dai. Ok. Sempre paura che questo... Ok. E moltissime delle cose che scrive ha a che fare con la sua esperienza personale, sono viste in presa diretta e raccontano effettivamente situazioni estremamente difficili da vivere, o comunque, ecco, c'è un rapporto di questo tipo poi con la parola scritta, insomma, si riesce, com'è raccontare cose come queste, voglio dire. No, ma non c'è niente di sportivo, di difficile in quello che faccio. Tutto quello che ho fatto io può farlo chiunque. Il problema è trovare il modo di raccontarlo, ecco. Scrivere così ti obbliga a vivere più intensamente, non so come dire. Cioè, nel periodo di gestazione, di scrittura di questo lavoro, tutto ciò che io vedevo, incontravo, persone, incontri, situazioni, memorie, ricordi, libri letti, entravano in un grande frullatore e assumevano quasi spontaneamente questa forma in versi e si riordinavano all'interno della storia. Io incontravo un signore che aveva la barba fatta in un certo modo e quel signore, senza saperlo, è entrato a far parte della storia. Una turca un giorno mi ha cantato una canzone che io ho riportato all'interno della storia e mi ha dato l'idea di come la storia poteva finire. Quindi attorno a un nucleo, a un'intuizione centrale, si sono coagulate una serie di cose che hanno fatto la storia con la sua complessità, che è un procedimento tipicamente orale. Certo, certo. Ok. Mi interessava particolarmente chiederle qualcosa riguardo al viaggio in bicicletta che ha fatto, che poi è stato raccontato ovviamente prima sulle pagine di Repubblica e poi come corpo integro e intero in un libro. Come mai la bici e come mai mezzi di trasporto sempre diversi, tra l'altro in altre esperienze di viaggio e di racconto? Beh, perché non potevo fare il ciclista a vita. Cioè, quello è stata la grande operazione iniziatica, il primo dei 10 viaggi che ho fatto per Repubblica dal 2001. Sì. E affrontare questi viaggi sempre diversi, in luoghi sempre diversi, con mezzi di trasporto sempre diversi, mi ha consentito di scoprire tutta una serie di metriche e di andature che diventavano anche linguaggio di racconto diversi, cioè ogni viaggio è completamente diverso dal precedente. Il viaggio in treno non ha sicuramente il ritmo di quello in bicicletta, certo. Per cui io penso che anche questa scelta metrica finale che ho fatto con questo libro in versi nasce proprio dalla quantità di viaggi che ho fatto, perché lo dico anche alla fine, le ultime parole del libro dicono che questo libro è nato dal cammino, dal battito del cuore e dal respiro. E sui 102.2 di Radio San Donà, questa era l'intervista realizzata da Matteo e Ferdinando a Paolo Rumiz, e che ci presentava il suo libro La cotogna di Istanbul, ballata per tre uomini e una donna, recentemente edito da Feltrinelli. Anche questa puntata è finita, io vi rimando alla settimana prossima con un nuovo libro e un nuovo autore, e sempre in compagnia di Ferdinando, che ringrazio per essere stato con me, per il fatto che un platano non ha ancora il suo nome. Ecco, in questo momento sto facendo una cosa che per fortuna siamo in radio e non si può vedere. Esatto, non c'è il visivo. Si ringraziano tutti i collaboratori di questo programma, a partire da Matteo Polo, Alice per quanto riguarda le letture, Giulia nella nostra redazione e Daniele tantissimo per il supporto tecnico. A questo punto ci sentiamo la prossima settimana. Questa è Cat Power che ci rifà i Rolling Stone. Arrivederci, a presto. Still can't be a man, 'cause it doesn't smoke the same cigarettes as me. I'm signed.